stanotte non dicere niente, cademe in braccio ma senza parlare. Dorme le cose, lo suono lucente, lo suono la notte desta. Stanotte si tutta da mia, l'occhi e tuoi belle me dice ne sì. No, questa luna nisciuna bugia, sta bocca bugiarda può dir. Sotto c'è o suo amare, stilla tremeta già.